5E. Ascolta e trasforma. Prima trovai un buon albergo e poi andai in giro. Dopo che ebbi trovato un buon albergo, andai in giro. Prima guardai la TV e poi studiai. Dopo che ebbi guardato la TV, studiai. Prima ascoltai la radio e poi andai a dormire. Dopo che ebbi ascoltato la radio, andai a dormire. Prima cenai e poi telefonai agli amici. Dopo che ebbi cenato, telefonai agli amici. Salutò gli amici e subito dopo partì. Appena ebbe salutato gli amici, partì. Preparò la valigia e subito dopo scrisse un'email. Appena ebbe preparato la valigia, scrisse un'email. Vide lo spettacolo e subito dopo andò al ristorante. Appena ebbe visto lo spettacolo, andò al ristorante. Scrisse la lettera e subito corse a spedirla. Appena ebbe scritto la lettera, subito corse a spedirla.